per primo. Saranno i tempi o pochi soldi per star via. Non sento musica quando viaggio, non leggo. Sicuramente chiamano te dopo di me. Resto a Milano qualche giorno, parte e ritorno. Intanto scrivo di un tempo che non vivo. Aspettami che arrivo, che mi informo sui treni, gli orari, i prezzi, i soldi e il modo in cui li ottieni. È ormai da un po' che ti alleni, ritieni? Quanti ragazzi furbi e quanti ragazzi scemi. Quanti ragazzi svegli, quanti ripieni in mostra. Quanti ragazzi stanno dalla nostra cameretta. Troppe le volte in cui non ci si aspetta. Ma dove la metterai? Mai tutta sta fretta. Sono siamo insieme in questo giorno che mi tiene sveglio a tratti. Sarà che siamo attratti entrambi dalla stessa luce. Sarà la pace qua in camera a darmi voce. Scrivo perché in questo momento avevo, non so, è strano, lascia stare che dicevo prima. Ci si allontana con il tempo, poi ci si avvicina. Parole per ore fino a fare mattina. Andare a letto con pensieri vuoti, risvegliarsi no, qui in un circuito che continua. Ora sono qui a scrivere senza un perché. Ora sto parlando di te senza un perché. Ora mi andava di farlo per dire qualcosa che non fosse banale e profondo, ma qualcosa, qualcuno a cui tengo. Ora sono qui a scrivere senza un perché. Ora sto parlando di te senza un perché. Non ti puoi perdere gli anni migliori. Ma quanti gli anni migliori, quanti lavori fuori, gruppi minori, oh, quanti invasori, quanti legami stringe, quanti rapporti ignori. Scommetto, connetto nei migliori, commetto ancora gli stessi errori. Ma tu dal suolo ti stacchi, ti adatti, difatti non vedi che siamo agitati, allucinati, guidati, riflessi in specchi lucidati. Tocca a noi, siamo in due, io parto per primo. Saranno i tempi eppure qui c'è ancora un via. Di tanti questa no, per quanti questa no, quanti momenti no, non tocca dir di no.